Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Questa è guerra, quello lì è un massacratore di operai, quello lì. Grida e fumogeni, raid, contestazioni sparse e allarmi accreditati, con un interrogativo tanto preciso quanto funesto che si ripropone. C'è il rischio davvero di un ritorno alla banda armata? 40 anni fa la nascita delle BR, oggi il loro nome fa ancora paura. Storiacce di questa settimana apre le porte degli anni più bui della storia d'Italia, tra vecchio e nuovo, tra drammi passati, timori recenti e fatti. Fatti da mettere in fila e analizzare, come i blitz alle sedi della CISL o di Confindustria, o prima ancora l'ordigno lasciato alla Bocconi a Milano e il ministro dell'Interno Roberto Maroni che annuncia c'è il rischio violenza al corteo della Fiomma. La manifestazione è andata liscia sul fronte dell'ordine pubblico, ma la situazione complessiva resta sotto la lente degli osservatori che, al di là dei pericoli astratti, però partono dai fatti. Fatti come le ultime concrete inchieste. Il giudice milanese Guido Salvini. Nel 2007 abbiamo affrontato quella che viene chiamata la seconda posizione, cioè un altro tipo di Brigate Rosse. Esiste la possibilità di questo mondo di premere sull'area antagonista, sulle tante forme oggi di scontento, per in qualche modo allargare la propria base e riprodursi. Non ai samurai della stella a cinque punte, ma a quello che definisce il terrorismo politicamente sostenibile, pensa dunque uno dei magistrati che ha scandagliato più a lungo le versioni interna per 30 anni, prima nelle indagini sulle piste nere della strage di Piazza Fontana, poi firmando, appunto, gli arresti delle cosiddette nuove Brigate Rosse. Osserva il clima delle ultime settimane e non mi piace, dice Salvini, ma scinde gli allarmi dai fatti perché ora, ricorda il GIP, tutto è diverso. Vedo però tra la nascita di quella organizzazione nelle 70-71 e oggi delle differenze importanti. Ricordiamo che le Brigate Rosse nacquero sull'onda dei movimenti nelle grandi fabbriche. E ricordiamo che nacquero sull'onda anche di certe mitologie, la rivoluzione tradita, la resistenza tradita. Il primo bollettino che pubblicarono, simbolicamente il 25 aprile 1971, si chiamava proprio la Nuova Resistenza. Ma la loro grande base era nelle grandi aggregazioni operaie, che con il mutamento del mercato del lavoro sono scomparse. E rispetto alle Brigate Rosse degli anni 70, nel 2007 e forse anche dopo, abbiamo davanti un movimento che ha lo stesso nome ma che ha una base un po' diversa. Quelli che abbiamo visto arrestato e sono stati condannati negli ultimi due anni non sono più lavoratori delle grandi fabbriche come una volta di Torino, di Milano, quelle che conosciamo, ma sono i soggetti di quel mondo precario, frammentato di oggi, quindi l'impiegato della pubblica amministrazione, l'infermiere, l'impiegato delle poste, il grafico, cioè rappresentano quella fascia sociale più esposta alle durezze del mercato del lavoro, al lavoro precario, quelle fasce a cui la proposta terroristica quindi oggi si propone con un relativo successo. È stato detto che i terroristi degli ultimi anni non sono più gli operai massa delle grandi fabbriche, della Fiat e simili, ma sono i brigatisti del call center. Se è vero questo, ecco, lei come legge i segnali più o meno recenti che ci sono stati? Devono essere considerati o comunque attengono ad una fascia che in ogni caso è diversa rispetto a quella che può portare a forme degenerative di violenza? Sì, io farei una distinzione sulle forme di terrorismo, in particolare brigatista, che abbiamo visto negli ultimi 4-5 anni. Ci sono due linee. Una è quella che ha ripreso le Brigate Rosse classiche di una volta, il partito comunista combattente, in cui poche persone, delle specie di samurai, da soli colpiscono direttamente il cuore dello Stato e mettono in opera omicidi come quelli che ricordiamo, gli ultimi di Biagi e D'Antona. E questo è Brigate Rosse, prima posizione, Partito Comunista Combattente, quello di Desdemona Lioce, è un nome che tutti conosciamo. Certo. Questo gruppo è un gruppo molto piccolo che intorno a sé ha ben poche forme di solidarietà e possibilità di reclutamento. Ma nel 2007, con gli arresti dei gruppi a Padova e a Milano, abbiamo affrontato quella che viene chiamata la seconda posizione, cioè un altro tipo di Brigate Rosse, quelli che hanno una logica movimentista, in cui i loro militanti non sono clandestini, come la Lioce, sono persone che agiscono anche politicamente alla luce del sole nei centri sociali, nel sindacato, e che non ambiscono direttamente a colpire e a uccidere, ma svolgono azioni di intensità minore, quella che loro chiamano propaganda armata, quindi può essere piccolo attentato, l'accumulo di armi e così via, che tende quindi ad espandere le fasce di intervento di solidarietà, per cui l'attività politica legale si mischia con quella illegale. E infatti, mentre il gruppo che uccise D'Antone Ruffilli, sgominato, non ha avuto e non poteva avere intorno a sé nessun tipo di solidarietà, gli arresti del 2007, quelli che si chiamavano Partito Comunista Politico Militare, seconda posizione, hanno avuto una certa area di simpatia intorno a loro. Consensi come questi, pubblicamente manifestati sulle note dell'Internazionale nell'aula della Corte d'Assise di Milano da un gruppo di sostenitori degli imputati, i nuovi brigatisti, nel giorno della loro condanna. Esiste la possibilità di questo mondo che agisce con una certa intelligenza, nel senso di non compiere mai di più di quello che in qualche modo è spendibile politicamente, di premere sull'area antagonista, sui giovani frustrati, sui centri sociali, sulle tante forme oggi di scontento, per in qualche modo allargare la propria base e riprodursi. È quello che si chiama, secondo i sociologi, il terrorismo politicamente sostenibile. Si fa quel tanto non che riduce le simpatie, come l'omicidio, ma quello che serve a ampliare la propria base di simpatie, ed è il fenomeno che forse non è concluso. È a quest'area, secondo lei, che bisogna guardare? Sì, ricordiamo che quando vi furono i 20 arresti circa del 2007, scoprimmo che quel gruppo, quelli dei progetti contro Pietro Ichino, certo, e anche i progetti di attentato, ad esempio al Giornale Libero, avevano impiegato per ricostituirsi, dopo la grande sconfitta di 10-15 anni fa, circa 4-5 anni, si erano lentamente ricostituiti, avevano impiegato 4-5 anni, niente possiamo dire di sicuro, ma un processo di ristrutturazione, anche se nel tempo, anche se non è breve, può certamente avvenire. Noi non sappiamo cosa sta succedendo in questo momento e può darsi che lo sapremo fra 1-2 anni, sperando che, come è avvenuto nel 2007, gli arresti possano precedere attentati contro le persone. Ma quindi secondo lei obiettivi omicidiari? Le Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente, quelle, i samurai di una volta, avevano colpito persone come Biagi o D'Antona, abbastanza sconosciute al grande pubblico. Era interessante invece notare come un obiettivo come Ghino o anche come il Giornale Libero erano obiettivi che in qualche modo erano intelligentemente preparati per aumentare un'area di simpatia. Pietro Ichino non era conosciuto solo come uno studioso, ma come colui che interveniva sul Corriere della Sera, sulle questioni del lavoro, sulla pubblica amministrazione. Quindi la capacità di individuare obiettivi che in qualche modo siano spendibili e che aumentino il raggio di reclutamento, di azione, di simpatia di quel mondo. Ancora una cosa vorrei chiederle, dottore, e riguarda le minacce che lei stesso ha ricevuto un annetto fa. Anche quelle portavano una firma, Nucleo Proletario Rivoluzionario, se non sbaglio. Episodi di questo genere, sia per magistrati che per uomini politici, per giornalisti e imprenditori, sono frequentissimi. Quello che si può dire è che comunque non deve essere abbassata la guardia, perché c'è una latenza di riorganizzazione a cui lentamente potremmo avvicinarsi. Sta all'attenzione di tutti, non solo della giustizia, ma anche ad esempio del sindacato, delle fabbriche e di tutte quelle forze che in qualche modo non vogliono assolutamente che si ripetano tempi che complessivamente, ricordiamolo, hanno costato quasi 400 morti. 400 morti sotto colpi di differente matrice e un'amara osservazione. L'Italia è stata forse l'unico paese europeo, notano gli studiosi, a non aver debellato del tutto in 40 anni le versioni di sinistra, così come in questi 40 anni non tutti i militanti di quelle bande armate sono stati arrestati. Storielle. Storiacce. Inutile spendere troppe parole, meglio dire subito che chi interviene o si adopera contro la lotta e gli interessi dei lavoratori è un nostro nemico e come tale va colpito. Con questi proclami incollati ai muri, per la prima volta 40 anni fa faceva la sua comparsa il giornale Sinistra Proletaria. Era il 28 ottobre 1970 e quei fogli, appesi sulle pareti di fabbriche milanesi, segnarono l'inizio di un percorso che avrebbe portato alla famigerata stella a 5 punte delle BR e al sangue versato sotto la P38. 40 anni sono passati, ma tuttora un interrogativo come una spada di Damocle sembra pendere sul destino dell'Italia. Esiste davvero il rischio di un ritorno alla violenza? Le tensioni e certe contestazioni recenti sono preludi di altro? Dei nuovi gruppi eversivi e di quello che ha definito il terrorismo sostenibile abbiamo parlato nella prima parte col giudice milanese Guido Salvini, che tra l'altro aveva firmato gli arresti per le cosiddette nuove BR. E ripartiamo da qui, tra vecchio e nuovo, tra allarmi distinti dai fatti, con un altro esperto di quella stagione, Giovanni Pellegrino, già presidente della Commissione Stragi. Direi che la situazione è ancora e fortunatamente diversa. Le Brigate Rosse furono la punta di un iceberg. Oggi la situazione italiana non è una situazione ancora che sia paragonabile a quella. È evidente però che più crescono situazioni di disagio sociale, più la crisi economica morde, più sale la probabilità che fenomeni anche eversivi possano riprodursi. Ma stando ad un'analisi, diciamo, linguistica, ci sono modalità che in qualche modo strizzano l'occhio a slogan che evocano ben altri scenari? Direi in parte sì, tenendo presente che tutto questo ha avuto una serie di fasi intermedie. Se noi pensiamo all'NTA, allora noi potremmo avere una serie di agganci che portano al lessico dei proclami attuali. Ma secondo me tutta la pubblicistica dei CARC, dei Comitati per la Resistenza per il Comunismo, richiamava l'elaborazione, che si elabora un'elaborazione sempre abbastanza rozza delle Brigate Rosse. Il ministro Maroni aveva lanciato un allarme per il corteo della FIOM a Roma. Fortunatamente le manifestazioni si sono svolte senza alcun tipo di incidenti. Io non direi fortunatamente. In realtà questo non è avvenuto perché la FIOM ha saputo organizzare un servizio d'ordine esemplare a riprova che la protesta sociale, che non vuole degenerare in terrorismo, deve anche trovare in sé gli anticorpi che evitino quel tipo di degenerazione. Perché secondo lei in Italia ogni tanto aleggia questo spettro di un ritorno alla violenza? Questo è il vero interrogativo. Mentre io e lei stiamo parlando, c'è in qualche parte d'Italia qualcuno che pensa di dare inizio a una nuova stagione delle Brigate Rosse, che naturalmente attendono che il livello dello scontro sociale si innalzi perché per poter tornare in azione. Quanti secondo lei? Saranno poche decine. Ma secondo lei c'è stata una sottovalutazione in origine di quello che poi è diventato il terribile gruppo delle Brigate Rosse? Non ci fu sottovalutazione, c'era molta impreparazione. In qualche settore ci poteva essere anche una valutazione di convenienza, cioè che in realtà le Brigate Rosse servissero a determinare una richiesta d'ordine. La sottovalutazione ci fu nell'epoca successiva e io mi assunsi una parte di responsabilità. Prima dell'omicidio d'Antona c'erano stati una serie di segni preparatori che noi per primi come Commissione Stati sottovalutavamo. Ad esempio tutte le rapine di autofinanziamento o piuttosto un po' di pubblicistica. Uno dei fidanzati della Lioci viene preso su motorino che stavano per fare la rapina e come viene preso si dichiara per esempio comunista combattente. E quindi non furono fatte le adeguate indagini all'epoca? Sì, però devo dire che Ferrigno ce ne parlò e noi per primi avremmo dovuto dare un allarme che non demmo. Pensate che ormai la questione fosse stata definitivamente debellata? Ritenevamo che ormai le Brigate Rosse appartenessero al passato, mentre Ferrigno era un prefetto, ci aveva avvisati dicendo guardate che sotto la cenere covano tizzoni ancora non spenti. Perché, secondo lei, non si è saputo fare i conti con questa esperienza? Secondo me le zone di collateralismo ci furono all'epoca delle Brigate Rosse storiche, non furono stroncate perché furono pagati dei prezzi di impunità a collaborazione che ci sono stati. Certo. Poi però c'è stato un fenomeno di rimozione culturale. Con troppa facilità abbiamo ritenuto di confinare quella vicenda in una sfera puramente criminale. Erano movimenti che avevano un forte radicamento nella società e negli strati più impensati. Ad esempio? Senzani era un collaboratore dell'Enciclopedia Italiana. Fenzi, il cognato di Senzani, era uno dei maggiori dentisti italiani. Donato era il figlio di un ministro ed era un capo terrorista. E noi stessi abbiamo avuto la vicenda della Saraceni, che era la figlia di uno di noi, di uno dei componenti della commissione, uno che era stato un grande magistrato, e la figlia, quando è stata arrestata, ci aveva nella secca della camera da letto la fotografia di Gallesi. Non trova una similitudine con la ragazza figlia di un magistrato che lanciava fumogeni contro il segretario della CISL al convegno a Torino? Potrebbe diventarlo se questi fenomeni di protesta assumessero un livello più intenso. Fenomeni a cui guarda con preoccupazione anche Rosario Priore, già giudice istruttore, che dice: mi sembra tutto un déjà vu. Fenomeno c'è stato e quando si è avuta l'impressione che fosse sparito era semplicemente perché c'erano le ritirate strategiche o forme diffuse di letargia, cioè si andava in letargo, ma la bestia è sempre rimasta, quindi il rischio c'è. Questi fenomeni che noi vediamo, io posso dire che mi sembra un déjà vu. Il nostro paese è sempre in preda a questo diffuso ribellismo, non vedo molti cambiamenti. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare questa come tutte le altre puntate di Storiacce sul sito radio24.it e da lì accedere anche al nostro audioblog. Ciao, a sabato!